Prima edizione. L'informazione del mattino. Buona giornata, è il 21 di giugno, solstizio d'estate, ci siamo, con prima edizione siamo arrivati anche a questa estate, il 21 di giugno oggi, e cominciamo allora la giornata con le notizie della notte. Buona giornata innanzitutto da Anna Migliorati, c'è Peter Bescapè in regia come ogni mattina, c'è Diego Rovelli già prontissimo, c'è la redazione di GR24. Che è successo questa notte? Parleremo di ambiente, perché in Brasile, Rio de Janeiro, fino a poche ore fa, ora è luna di notte, si è lavorato al vertice più 20 dell'ambiente, ma parleremo anche di lavoro, perché pare che l'accordo ci sia per la nuova riforma. Parleremo anche del caso Lusi, col Senato che vota l'arresto per l'ex tesoriere. Molte altre le notizie di questa giornata, e allora cominciamo subito. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, il partner ideale per la gestione del credito in Italia e all'estero. Assicom.com. Sono le 6. GR24, il sole 24 ore. Lavoro, accordo con i partiti per tempi rapidi, Berlusconi provoca, uscire dall'euro non è una bestemmia. Il caso Lusi, il Senato vota sì all'arresto dell'ex tesoriere, lui ho molto da dire ai PM. Maturità oggi, seconda prova scritta, passano l'esame tracce e invio informatico. Navi in avaria nel canale d'Otranto, tutti salvi, migranti raggiunti nella notte. Buongiorno dalla redazione dunque, allora cominciamo con quella che è una buona notizia della notte, che sono stati tutti soccorsi dalla guerra di finanze trasportati in porto a Otranto i migranti che nelle scorse ore erano stati intercettati nel canale d'Otranto a bordo di una nave in avaria a 37 miglia dal capo di Santa Maria di Leuca. Sono in tutto 17, la loro presenza in mare era stata segnalata da un aereo in servizio di soccorso solo 2 giorni fa, erano stati invece 7 i dispersi in una situazione analoga. E ora invece la politica, come avete sentito nei titoli, si sblocca l'impasse sull'approvazione del DDL lavoro prima del vertice europeo del 28 giugno, come va chiesto il presidente del Consiglio Mario Monti. E al suo ritorno dal G20 di Los Cabos ha telefonato a Bersani, Alfano, Berlusconi e Casini e li ha rassicurati. Faremo dei provvedimenti legislativi ad hoc, ha detto, per la questione esodati sulla flessibilità. Ma in cambio il presidente del Consiglio chiede l'approvazione del disegno di legge entro il vertice europeo di Bruxelles. E intanto a lanciare una provocazione è stato Silvio Berlusconi. Questa non è una bestemmia, ci sarà scandalo. Che cosa può succedere se si ritorna a una propria moneta da parte della Spagna, da parte dell'Italia, magari da parte della Grecia? E intanto sui mercati in questo istante in decisa crescita la borsa di Tokyo guadagna l'1,2%. Dopo la prova di italiano ieri, i maturanti affrontano oggi la seconda prova scritta, che varia da indirizzo a indirizzo. Quest'anno gli studenti si dovranno cimentare con greco al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico, pedagogia al pedagogico, figura disegnata all'artistico. Prova superata ieri intanto per l'invio informatico delle buste. Torneremo a parlarne questa mattina, prima edizione. L'Aula del Senato ha dato il via libera con voto palese alla richiesta d'arresto avanzata dalla Procura di Roma per Luigi Lusi, che in serata si è costituito nel carcere di Rebibbia a Roma. L'ex tesoriere della Margherita è accusato dalla Procura di Roma di aver sottratto oltre 23 milioni di euro di rimborsi elettorali alle casse del partito. Altro nodo politico, quello della giustizia e la presunta trattativa Stato-mafia. C'è bisogno di verità sulle stragi mafiose di 20 anni fa, ma senza strumentalizzazioni, così il ministro Severino. Fuori da ogni strumentalizzazione, di qualsiasi provenienza essa sia, che distorcerebbe soltanto quella ricerca della verità a cui tutti aspiriamo, pur concordando pienamente con l'esigenza che la verità debba poter essere cercata senza guardare in faccia nessuno, ribadisco che proprio in un'indagine così seria e delicata vadano ricercate verità accertate con metodo di assoluto rigore. Quasi interrotte, secondo la Corte dei Conti, le vendite del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali. La vendita degli immobili degli enti previdenziali sembra più facile da annunciare che da compiere. Le dismissioni sono quasi ferme, ha rivelato la Corte dei Conti in un'audizione parlamentare, e in alcuni casi si rischia la svendita. I numeri parlano da soli. Per la sola INPS, nell'operazione di cartolarizzazione SHIP 2, partita nel 2002, sono rimasti senza acquirente 10.000 immobili. All'ex INPDAP, che deteneva quasi la metà del patrimonio immobiliare degli enti di previdenza, sono tornati indietro, invenduti, 12.000 immobili, mentre la quota venduta negli ultimi 3 anni è appena del 10%. La causa più importante di tanta difficoltà è il crollo del mercato immobiliare, ma contano anche la situazione degli occupanti senza titolo e la scelta delle procedure per rimettere sul mercato gli immobili non venduti nelle altre cartolarizzazioni. Anche l'INAIL ha un patrimonio immobiliare notevole, del valore di oltre 2 miliardi di euro, ma le cause tra ente ed inquilini e il problema degli alloggi di pregio occupati fanno andare le vendite a rilento. Inoltre, interlocutori privilegiati come le casse previdenziali privatizzate non investono più in immobili come un tempo. Francesco Riccardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Negli Stati Uniti, tegola per Obama. Il ministro della giustizia Eric Holder ha commesso oltraggio al Congresso per non aver collaborato adeguatamente con un'indagine parlamentare sullo scandalo sulle armi americane finite in mano ai narcotrafficanti messicani. Questa è la delibera di una commissione della Camera dei rappresentanti approvata nella notte italiana, che ha pertanto messo formalmente il ministro americano in stato d'accusa. Infine lo sport, oggi si torna in campo agli europei per la prima partita dei quarti, si affronteranno Portogallo e Repubblica Ceca. Allora tra breve nello sport tutti i dettagli e dopo Roberto Galullo con Sottotiro cominciamo anche prima edizione. Prima edizione. Da quest'anno non cambiare, stessa piaggia, stesso mare, con le pinne, il fucile, gli occhiali. Noi ed è davvero estate, davvero estate. Oggi il 21 di giugno, il solstizio d'estate. Buona giornata da Anna Migliorati. Cominciamo dunque con questa copertina, prima edizione di quest'oggi. Oggi che sarà la quinta edizione della Festa della Musica, evento che si inserisce nel contesto europeo delle celebrazioni, nate in Francia nel 1982 per il giorno appunto del solstizio d'estate, il 21 giugno. Dal 95 ha assunto un carattere internazionale, viene celebrato in più di 80 paesi nei diversi continenti. Allora Adriana Fracchi ha chiesto a Caterina Caselli, musicista e manager discografico, perché bisogna festeggiare la musica. Non potrei vivere senza la musica. Mi rendo conto, cioè, che si può esistere, ma non vivere senza la musica. La musica noi a volte non ce ne accorgiamo perché ce l'abbiamo intorno, no? Però nei momenti tristi o malinconici o nei momenti allegri, se ci pensiamo, insomma, si sottolinea di più attraverso la musica. A parte anche, e questo lo dico sempre, indipendentemente dal fatto che uno possa fare carriera o meno, è uno strumento, è un amico per la vita, ti tiene compagnia. La musica aggrega le persone e le porta, come dire, anche a vedere le differenze, diciamo così, però a rispettarle, perché insieme si crea empatia. E allora buona estate, buon solstizio d'estate, tra poco le prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Breve carrellata allora delle prime pagine dei quotidiani che oggi troverete in edicola, con aperture quasi tutte uguali. Allora carrellata veloce, Corriere della Sera, sì, del Senato lusincella, La Stampa lusincella con i voti del PD, La Repubblica sì all'arresto, Lusi in carcere, Il Messaggero sì del Senato arrestato Lusi. Insomma, l'ex tesoriere della Margherita che finisce in carcere è il tema che predomina quest'oggi. Ha autorizzato l'arresto, leggiamo dal Corriere della Sera, 155 favorevoli, 13 contrari, con il PDL che lascia l'aula al momento del voto. Ieri sera, come dicevamo in GR24, Lusi si è costituito, è nel carcere di Rebibbia e dice: ho molto ora da dire ai PM. Il senatore è accusato di appropriazione indebita e associazione a delinquere. Vivo un incubo, ai PM non ho detto tutto tutto, dice, non è la prima volta, lasciando intendere che ancora molto probabilmente c'è da capire su quei fondi destinati ai rimborsi elettorali e invece scomparsi dal casse della Margherita. La paura dell'antipolitica, riti ed esorcismi con i fantasmi del 93, scrive Pierluigi Battista questa mattina sul Corriere della Sera. Stavolta votano sia l'arresto di un loro collega politico, c'è lo spettro del biennio di Mani Pulite a tormentarli, c'è il fantasma di un'epoca storica in cui 5 partiti vennero demoliti e in cui Beppe Grillo era solo un comico a cui ogni tanto scappavano battute feroci sui socialisti, c'è l'incubo della valanga, dell'ondata che dopo aver distrutto la prima rischia di sgretolare anche la seconda Repubblica, la paura dell'antipolitica, scrive Sergio Rizzo con Lusi che appunto dalla cella ora dice ho molto da dire ai PM. Si comincia sempre dal tesoriere, il commento di Federico Geremicca sulla Stampa, da qualcuno bisognava cominciare, magari ti puoi chiedere perché Lusi sì e Belsito no per dire, oppure perché no il Trota, ma da qualcuno bisognava cominciare in faccende così in genere, si comincia dai tesorieri. Anche Tangentopoli, iniziata per caso con Mario Chiesa e il Mariuolo, si mostrò per quel che era grazie al tesoriere Severino Citaristi, storico e mite custode delle casse della DC. Stavolta tocca Luigi Lusi, un'infanzia da scout e una faccia da allegrone, scrive Federico Geremicca. Naturalmente i commenti sono molti, li trovate un po' su tutti i quotidiani. Datemi acqua e poi le lacrime, il retroscena raccontato ad esempio sulla Repubblica, il gelo dell'aula che fa il pollice verso, il commento sul Messaggero che scrive anche il confine tra garanzie e privilegi, l'editoriale a firma di Francesco Paolo Casavvola. I commenti, dicevamo, sono molti, l'apertura è sostanzialmente simile un po' per tutti i quotidiani. Diversa invece la notizia che troverete a centro pagina, almeno per la carrellata che stiamo facendo noi questa mattina. I temi sono due, il lavoro innanzitutto, l'accordo trovato sul lavoro e poi l'ultima butade invece di Berlusconi che riguarda l'euro. A scegliere il taglio centrale sul tema del lavoro è il Corriere della Sera, intesa Monti partiti, risolverò il caso Esodati, riforma prima del vertice dell'Unione Europea, la Fed pronta a sostenere l'economia, insomma un po' tutto quello che è il pacchetto in vista del vertice europeo del 28 di giugno nel taglio centrale del Corriere della Sera, con la riforma del mercato del lavoro che dovrebbe essere approvata entro il 27, appunto alla vigilia del vertice europeo, con Monti che ha rassicurato Alfano, Bersani e Casini dicendo che si faranno provvedimenti legislativi ad hoc per la questione Esodati e la flessibilità, ottenendo così in cambio l'accordo sul lavoro. Lavoro, Monti, riforma entro il 27, il taglio centrale anche per il quotidiano torinese La Stampa, mentre La Repubblica in grande evidenza mette quella che dicevo, la buttade di Berlusconi, basta tasse e uscire dall'euro non è una bestemmia. Così ieri, l'avete sentito anche poco fa in GR24, ha parlato Berlusconi tornando alla questione di un ritorno alla lira. Si può anche pensare di uscire dall'euro e dirlo non è una bestemmia. L'analisi dura della Repubblica, la follia del cavaliere che fa male al paese, firmata da Massimo Giannini. Berlusconi, si può uscire dall'euro, anche il titolo scelto dal Messaggero. La notizia la trovate anche sul Corriere della Sera. Berlusconi su Euro e BCE, Berlino non ci sta, ebbene esca. Insomma, la buttade di ieri fa discutere. Intanto però i mercati non è ovviamente a questo che guardano, ma a ben altro. Allora ecco il Sole 24 Ore che l'apertura invece la fa sulla politica scelta dalla Fed, dalla Banca Centrale Americana in questo momento, una politica che la BCE invece non può permettersi. Dalla Fed nuova liquidità alle banche, così il Sole 24 Ore. Bernanke annuncia una seconda operazione twist per 267 miliardi, vendita di titoli a breve, acquisto di bond a lunga scadenza. L'effetto G20 G20 spinge le borse europee, il differenziale BTP Bund scende a 416, questa l'apertura oggi del Sole 24 Ore. Ma vi dicevo, politica che l'Europa non può permettersi, questa è quanto si legge nel commento di questa mattina di Marco Nado. USA batte Europa, se anche la BCE potesse ballare il twist. Nuova operazione twist, dicevamo, la Fed ha deciso di agire subito con un articolato intervento la cui caratteristica più evidente è il chiaro intento di incidere in modo sostanziale sulle aspettative. Tutto questo in Europa per ora non si può fare, ma ecco, taglio centrale del Sole 24 Ore, il piano anti-spread con l'Unione Europea che frena e Bruxelles appunto contro l'uso del fondo salva stati per comprare invece bond, e anche qui Berlusconi che dice l'uscita dall'euro non è una bestemmia. Altre notizie di oggi, tralasciamo le notizie economiche per tornare invece sulla Repubblica, dove il taglio centrale è dedicato all'aborto, la legge 194 non si tocca, la Consulta ha bocciato il ricorso di un giudice di Spoleto, la destra dice decisione pilatesca, il commento di Concita De Gregorio, battaglia infinita questa mattina sulla Repubblica. Altrettanto infinite sono le scosse, ahimè, in Emilia, dove è passato ormai un mese dal terremoto, ma ora c'è anche chi lamenta che non se ne parla più. E allora ecco la Stampa questa mattina, il quotidiano torinese: ci hanno dimenticato, soldi zero, solo parole, qui si rischia la rivolta. Michele Brambilla, reportage dalle zone terremotate dell'Emilia, la delusione ad un mese dal terremoto, così sul quotidiano torinese. L'altra notizia che trovate un po' dappertutto, e ovviamente ne parleremo anche noi anche questa mattina, come non farlo ancora, è l'esame di maturità. Siamo alla seconda prova scritta, quella ormai lo sapete diversa da indirizzo ad indirizzo. La notizia è che i timori per l'invio informatico delle tracce sono superati. Ieri è andato tutto bene, ma per una volta pare che siano state promosse anche le tracce dei temi, e questa davvero una novità. Tra Montale Jobs i giovani scelgono di parlare di crisi, così la Stampa. Se ai giovani chiediamo le risposte alla crisi, il Corriere della Sera. Maturità, avere 20 anni ai tempi della crisi, scrive Michele Serra sulla Repubblica. L'unica concessione al pop è Steve Jobs, per il resto argomenti, autori e testi sottoposti ai maturanti 2012 danno l'impressione non scontata di una scuola italiana capace di indicare un nesso molto forte tra cultura e società, tra cultura e attualità. Pare che per una volta almeno le tracce di maturità siano state promosse. Un'ultima segnalazione, ci restano pochi istanti, poi come sempre c'è Alessandro Milan per approfondire i quotidiani che troverete in edicola. La Gazzetta dello Sport, come non farlo, parliamo di europei, parliamo di Balotelli, l'intervista allora al tecnico del City, Mancini, che con Balotelli ha i rapporti che ha, un po' tesi, diciamo così. Balotelli deve giocare sempre, dice però Mancini, riferendosi non al suo City ma alla nazionale. Con lui la nazionale è molto più forte, ma gli inglesi sono organizzati, il lavoro fatto da Capello ha lasciato il segno. Parla Mancini dunque alla vigilia, ormai vicinissimi alla sfida tra Italia e Inghilterra agli europei. Ne parleremo naturalmente anche noi più avanti ancora nella mattinata. Nel frattempo lasciamo qui le prime pagine dei quotidiani, una piccola pausa e riepiloghiamo come sempre le notizie di oggi. Prima edizione. Eccoci alle inchieste di Radio 24. Italia in controluce. Siamo nel mattino, nel primo mattino di Radio 24, Italia in controluce. Benvenuti a tutti e buona mattina da Daniele Biacchese. Cosa ci fanno, secondo voi, ex uomini della banda della Magliana e della Camorra nell'inchiesta sul calcio scommesse? A questa domanda risponde il reportage di oggi, firmato da Maria Luisa Pezzali. Nel calcio c'è più omertà che nella mafia. Queste le parole di un investigatore dello SCO, Servizio Centrale Operativo della Polizia, riportate nelle cronache delle inchieste sul calcio scommesse. Ma i collegamenti tra calcio e criminalità organizzata non stanno solo nella forma. Le inchieste delle procure di Cremona, Bari e Napoli sul giro milionario di scommesse e partite truccate sono solo la punta di un iceberg che galleggia su quello che ormai è molto più di un sospetto. Da anni le mafie hanno messo le mani sul pallone. Da nord a sud, dalla Serie A ai campi di periferia. Lo testimoniano agli atti delle inchieste molti elementi investigativi, tra cui incontri di calciatori con personaggi vicini agli ambienti della criminalità organizzata, come quello di Giuseppe Sculli, attaccante del Genoa con un passato nella Lazio, accusato di associazione per delinquere dai magistrati di Cremona, nipote del boss dell''Ndrangheta Giuseppe Morabito, con persone vicine a Massimo Carminati, ex militante dei NAR e uomo di fiducia della banda della Magliana. Le vecchie attività della criminalità romana si sono modernizzate, ci dice Lirio Abbate, inviato dell'Espresso. La banda della Magliana, quelli che erano i personaggi che facevano parte della banda, avevano all'epoca un hobby, quella di gestire le scommesse dell'ippodromo, le corse dei cavalli, in sostanza il gioco clandestino, il gioco d'azzardo. Oggi tutto ciò si è evoluto, è cambiato e si arriva appunto a giochi, alle scommesse online, alle scommesse sul calcio e su tante altre puntate su cui la criminalità organizzata lucra moltissimo, e da qui c'è il contatto con quella che è l'indagine attuale di Cremona e che porta ai giocatori di Serie A. Potrebbe essere lo sviluppo prossimo dell'inchiesta? È uno sviluppo che sta coltivando il Servizio Centrale Operativo della Polizia insieme ai magistrati, ed è possibile che buona parte di questa inchiesta possa essere trasferita a una procura antimafia. Sta di fatto che le indagini fatte dalla polizia hanno portato ad accertare, documentare, filmare e fotografare l'ex giocatore della Lazio Sculli, che è nipote di un boss dell''Ndrangheta, e che incontrava esponenti non solo dell'estrema destra ma del mondo ultra della Lazio, che sono ed erano in contatto con uomini della banda della Magliana. Tutto ciò fa pensare, fa riflettere che ci possa essere oggi un collegamento con quella parte di criminalità organizzata che vuole continuare a gestire le scommesse. Il reportage di Maria Luisa Pezzali sulla presenza della criminalità organizzata nell'inchiesta sul calcio scommesse. Torniamo oggi con nuove storie e nuove inchieste alle 13.30 su Radio 24. Vi ricordo la nostra mail controluce@radio24.it. Vi ricordo Facebook, abbiamo la pagina del gruppo, Twitter e il nostro blog che trovate su radio24.it. Grazie Daniele Biacchessi, in attesa allora di ritrovarlo alle 13.30 con Prima Edizione. Veniamo invece alle notizie di queste ultime ore, di questa notte, e questa volta possiamo darvi anche davvero una buona notizia. Una nave in avaria nella notte nel canale d'Otranto, solo due giorni fa vi abbiamo raccontato di 7 dispersi, questa volta invece per fortuna pare sia andata bene. Cristina Carpinelli. Sì, sono stati salvati 17 uomini, 17 migranti che sono stati intercettati nel canale di Otranto nella notte dalla Guardia di Finanza. I militari hanno deciso di portarli sul pattugliatore e poi li hanno portati a terra perché fosse prestato loro soccorso, dato che le condizioni di alcuni sono state giudicate non buone. Tutti gli uomini, quindi tutti i 17 migranti, si sono dichiarati di nazionalità pakistana e afghana. La loro presenza in mare era stata segnalata la Guardia di Finanza del gruppo aeronavale di Taranto da un aereo della costa ellenica in servizio di ricerca e soccorso in mare. La notte prima un'imbarcazione con 7 migranti a bordo era naufragata nei pressi di Santa Maria di Leuca, sempre nel Salento, e i corpi dei migranti non sono stati ancora ritrovati. Guardiamo con preoccupazione alla ripresa di flussi migratori verso il canale di Otranto, determinata da quanto accade in Siria, in Grecia e in altri paesi. Questo quanto ha detto ieri il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri. Ed è tutto. E grazie a Cristina Carpinelli. Queste le notizie di queste ore, di questa notte. notte. Voltiamo pagina ancora con Prima Edizione. Questa volta andiamo invece in Brasile, andiamo a Rio, dove non è mattina, è piena notte, circa 1:40 di notte, dove c'è l'inviato invece del Sole 24 Ore, Marco Magrini. Marco, allora ti abbiamo coinvolto questa mattina per parlare del vertice di Rio de Janeiro, vertice internazionale sull'ambiente. Si chiama Più 20 perché arriva 20 anni dopo il primo storico summit della Terra, ma se vogliamo dirla tutta, per la verità è già stato scherzosamente chiamato meno 20 per la mancanza in realtà di contenuti. Allora, fino a poco fa si è lavorato, sono stati fatti passi avanti, Marco? In verità forse bisognerebbe dire che è Rio meno 30, perché nei 20 anni che ci separano da loro la popolazione mondiale è aumentata del 22% e lo sfruttamento planetario delle risorse è addirittura è cresciuto ancora di più. E alla domanda se è stato fatto un passo avanti, onestamente mi viene da rispondere di no, perché la bozza di documento che è stata approvata nei lavori preparatori del vertice è francamente pallida e contiene più auspici che impegni concreti. Che cose concrete. Da qui però bisognerà partire, Marco. È solo la crisi economica a rendere difficile l'accordo tra le nazioni o c'è dell'altro secondo te? Direi che c'è anche altro, perché come dicevo prima tutti i vertici di questo tipo necessitano di un approccio multilaterale del quale francamente non si vede traccia e mai come in un argomento di questo genere la sostenibilità dell'economia planetaria richiede un approccio comune, perché si sta parlando della Terra che è una sola e dell'atmosfera che è una sola al di là di tutti i confini che separano i paesi. Però va detto che certamente si tratta di un problema economico, non tanto ambientale, perché la domanda cruciale è come fare in modo che le nazioni emergenti e quelle in via di sviluppo possano costruire fabbriche, posti di lavoro, strade e automobili senza usare quelle stesse risorse, mi riferisco ai combustibili fossili, che hanno alimentato la ricchezza occidentale negli ultimi due secoli. E quindi insomma complichiamo ancora un po' le cose. Marco, si è parlato di un fronte verde delle metropoli, tra l'altro guidato dal sindaco di New York, Bloomberg. Ci racconti un po' cos'è? Sì, 58 grandi città, grandi metropoli del mondo hanno annunciato l'intenzione di voler tagliare, ridurre le emissioni serra, ovvero in principal modo l'anidride carbonica, del 12% entro il 2020, che francamente rappresenterebbe un obiettivo importante, visto che, come giustamente lo stesso Bloomberg fa notare, le città del mondo sono rappresentano la massima concentrazione geografica di luoghi dove si produce l'anidride carbonica che riscalda l'atmosfera. E diciamo che anche noi in Italia è un problema che conosciamo bene. Ti ritroveremo magari nei prossimi giorni, perché naturalmente il vertice va avanti ancora per un paio di giorni. Nel frattempo ti lasciamo tornare a dormire. Grazie a Marco Magrini da Rio. Allora, il traffico, a proposito proprio di automobili, e poi invece parleremo di maturità. Prima Edizione. Seconda giornata per l'esame di maturità, come non tornare a parlarne. Oggi sarà la prova diversa da istituto a istituto a seconda delle diverse specializzazioni. Ieri c'è stata l'attesissima prova di italiano. Io saluto Daniele Grassucci, scuola.net. Buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, prima notizia, pare che siano promosse quest'anno le tracce, insomma, sono piaciute. Non sempre accade, anzi. Sì, Sì, sono globalmente piaciute e globalmente sono state ritenute alla portata degli studenti. Perché parlo di globalmente? Perché ce ne sono state due o tre che sono state le più gettonate e anche le più agevoli. La crisi? È questa... Stiamo parlando della crisi, quindi la crisi è giovani, scelta dal 41% all'incirca. Poi la seconda più gettonata è stata quella, un tema di ordine generale sui giovani e i loro sogni e le loro sfide. E quindi questo ecco, e poi c'è diciamo sostanzialmente le tre più scelte hanno totalizzato il 78% delle preferenze, quindi questo vuol dire che se ne sono state apprezzate sostanzialmente tre e le altre sono state un po' scartate. I due saggi brevi, quello di ordine artistico ecco sul labirinto che è stato giudicato un po' troppo complesso e l'altro sempre di ordine socio-economico, sempre un saggio sul bene comune e il bene individuale. In genere i saggi storicamente sono considerati delle prove più accessibili, quindi il fatto che abbiano raggiunto delle preferenze così basse vuol dire che insomma non sono state poi così tanto apprezzate. Tanto apprezzate, si è andato più sulla classica traccia. Oggi dicevo ci sarà la prova specifica, un appello anche, state attenti al web, giusto? Perché l'anno scorso non andò benissimo, ci fu anche una finta traccia, giusto? Sì, in realtà la novità di quest'anno, oltre al plico telematico, è stata che non ci sono stati dei buon temponi che hanno diffuso in rete sia il giorno antecedente alla prima prova, sia quello antecedente alla seconda prova, delle tracce finte, cioè sostanzialmente delle riproduzioni delle tracce ministeriali con tanto di logo, solamente diverse nel contenuto, cioè sostanzialmente il contenuto inventato di sana pianta. Nel 2010 addirittura capitò che fu diffusa una traccia di D'Annunzio con una domanda presa da un'antologia di scuola superiore, quindi riuscimmo a identificarla proprio per quel motivo. Quindi voi a caccia, quest'anno non c'è stato tutto questo. Come secondo te, meno voglia di scherzare, più attenzione o che è successo? Ma sicuramente meno voglia di scherzare, perché poi questo tipo di bravate si configurano come reato penale, perché nel momento in cui si falsifica un documento introducendo un logo ministeriale è chiaro che si passa dallo scherzo proprio ad un reato, perché si tratta pur sempre di un documento pubblico, dell'utilizzo di un logo di un'autorità pubblica, e quindi penso che nel corso del tempo coloro che hanno fatto questi scherzi poi si siano ritrovati ad avere alcuni problemi e quindi abbiano smesso. Solo una battuta, siamo veramente solo all'inizio perché siamo alla seconda prova scritta, ma come vi sono parsi questi maturandi 2012? Beh, innanzitutto quello che abbiamo visto, e lo racconto attraverso un aneddoto, è che la novità del plico telematico un po' li ha spaventati. Ad esempio ieri in una classe di un liceo romano i professori hanno detto: ragazzi, guardate che col plico telematico la polizia postale controllerà l'utilizzo anche dei cellulari, quindi andranno in giro con il radar per verificare se state utilizzando i cellulari oppure no. Si trattava chiaramente di una bufala, però una i ragazzi talmente spaventati... La forza di telematia, insomma, ci hanno creduto. Ci hanno creduto, e quando sono venuti da noi, perché li abbiamo intervistati, gli abbiamo rivelato: guardate ragazzi, questa è chiaramente uno scherzo che vi hanno fatto, però uno scherzo a fin di bene, perché poi alla fine ecco questa classe nello specifico nessuno si è azzardato ad utilizzare il cellulare e a provare a copiare così. Va bene, succede anche questo in questa maturità 2012. Grazie a Daniele Grassucci di scuola.net. lunedì la terza prova, magari ci ritroveremo ancora per raccontarvela. Grazie. Nel frattempo prima edizione invece termina qui, tra poco c'è GR24, l'apertura, torneremo sui temi della politica di stretta attualità ancora questa mattina. Grazie intanto e buon giovedì da Anna Migliorati.